Siccome ritengo che, diciamo, che il tempo di warm up, come si dice, per l'onorevole Zampa sia stato sufficiente per entrare nell'argomento, quindi le lascerei la parola se ritiene di aver così assaporato abbastanza delle questioni che stiamo discutendo. Ringrazio molto, grazie a tutti e mi scuso di essere dovuta, di avere dovuto allontanarmi dall'apertura, dalla fase di apertura di questo incontro. Ringrazio ovviamente il professor Bracalenti, ringrazio l'onorevole Bartolo che non vedo più e tutti coloro che hanno parlato prima e lo faranno dopo di me. In realtà seguo questi temi dai tempi della messa, diciamo, in opera prima scrittura della proposta di legge, in particolare la seguo con riferimento ai minori migranti, conosco e ho conosciuto anche sperimentazioni e anche vicende raccolte, testimonianze raccolte da neuropsichiatri dell'infanzia che hanno seguito, hanno avuto la possibilità di seguire, di curare, di prendersi, diciamo, cura di minori stranieri non accompagnati, donne e uomini, ragazze e ragazzi, giunti in Italia con situazioni già di, diciamo, disturbi del comportamento o patologie che attengono, diciamo, alla sfera dei disturbi mentali. E vi segnalo anche una pubblicazione molto, una delle prime che venne fatta molti anni fa, a cura del professor Rigon, che a Bologna, grazie alla intelligenza, diciamo, del presidente della comunità, del direttore della comunità di accoglienza, era stato arruolato proprio per seguire e assistere in qualche modo questi ragazzi. Perché le sue righe, la sua testimonianza raccolta in tante storie di altrettanti minori, ovviamente tutti coperti giustamente dal pseudonimo, quindi con una tutela della loro privacy molto totale, assoluta, nel senso che lui solo sa chi sono, di questi ragazzi lui racconta, diciamo, in modo molto concreto il come è cominciata la vicenda della malattia o del disturbo mentale e anche le diverse conclusioni che anche le terapie hanno avuto, nel senso che in qualche caso si è avuto una totale margine di successo e quindi questi ragazzi poi sono rientrati in una normalità della vita che ha permesso a loro una integrazione nella società che li circonda e in altri casi invece c'è stato un grande totale insuccesso con anche storie molto drammatiche come potete immaginare. Io non vorrei tornare sull'analisi di ciò che porta a disturbi della salute mentale o malattia vera e propria mentale dei migranti forzati e in particolare devo dire vorrei richiamare la questione delle donne mi scuso ma ho sentito poco evocata che sono particolarmente vulnerabili e che arrivano già vittime, praticamente sempre vittime di violenze davvero inaudite e che spesso sono già vittime a casa loro o che vengono addirittura in Italia destinate già alla prostituzione, costrette alla prostituzione, spesso anche, diciamo, con partenze dal proprio paese all'insaputa di ciò che le attende. Ed è una enorme piaga su cui mi pare ancora poco si fa e si sa anche al tempo stesso. Tutto questo mondo è coperto, diciamo, anche da un silenzio inquietante, perché il dottor Costanzo ha ricordato giustamente che abbiamo presentato insieme uno studio molto importante, ma credo che di quello studio non ci sia traccia su nessun giornale, almeno italiano, no? Quindi i migranti sono oggetto di attenzione esclusivamente per due ragioni che si contrappongono una all'altra radicalmente: chi diciamo, è fautore dell'accoglienza e chi è fautore semplicemente del respingimento. Non siamo andati un passo più avanti di lì, secondo me, e questo è un problema molto serio, perché non permette di vedere tutto il resto. Il resto ha a che fare con le politiche invece per la migrazione e per l'integrazione, che sono due, diciamo, cose che dovrebbero andare sempre insieme, accompagnandosi. E la salute mentale in questo caso è un pezzetto di questo eventuale secondo aspetto, cioè ti occupi e ti preoccupi. Del benessere anche di queste persone, nella misura in cui sei capace di comprendere che queste persone diventano componente, voce, diciamo, protagoniste della tua società, della società nella quale in questo caso il sistema sanitario si muove. Detto questo, il sistema sanitario italiano ha certamente una grande forza, che è quella di essere universale, gratuito e anche aperto a questi mondi, anche se noi sappiamo quanto è difficile l'accesso al sistema sanitario, in questo caso, quando parliamo di salute mentale, persino agli italiani stessi, diciamo, ai cittadini regolarmente soggiornanti, nel paese, oppure presenti in quanto, cittadini di questo paese. La salute mentale ha difficoltà nell'accesso ai servizi e quindi per queste persone, a maggior ragione, praticamente spesso gli ostacoli sono invalicabili. Di fronte alle cose che avete detto e che conoscete, credo, molto meglio di me, io penso che noi abbiamo, io abbia, insieme a me, ovviamente, ben vengano le persone che hanno consigli, suggerimenti, cose. Esperienze anche, buone esperienze anche da condividere, ci si deve interrogare su quali azioni vanno messe in atto e qual è perciò il compito che spetta alla politica. Se parlassimo banalmente di salute, vi faccio anche semplicemente come dire, vi rappresento il tema che stiamo vivendo con tanta difficoltà e per certi aspetti abbastanza anche, non voglio dire. Non voglio utilizzare l'aggettivo drammatico, ma è certamente molto severo, una prova molto severa a cui siamo chiamati, che è quella della epidemia e delle azioni di contrasto all'epidemia in corso. Se avessimo ignorato la questione dei migranti, avremmo fatto un danno non solo alla popolazione dei migranti, ma avremmo fatto un danno enorme alla salute pubblica, perché in realtà lasciare che per i migranti non ci sia, anzi, lasciare fuori dal sistema sanitario i migranti avrebbe significato, così come oggi ci stiamo interrogando sulla povertà, perché questo è lo stesso tema, lasciarli fuori avrebbe significato, ovviamente, in un caso di epidemia in cui il contagio passa da persona a persona, mettere in discussione la salute collettiva della comunità, perché nella misura in cui non tuteli la salute di ognuno, di ogni persona che è presente nel paese, non tuteli la salute di tutti gli altri. Penso che la salute mentale andrebbe affrontata in questa chiave e in questo modo. E che la prima cosa che siamo chiamati a fare è uno sforzo di coordinamento tra tutti gli attori che sono in gioco. Perché la promozione della salute mentale di queste persone non si riduce all'assistenza sanitaria, come voi avete ben rappresentato, ma va posta in una rete di interventi che deve prevedere un supporto legale, esattamente come il progetto che voi ci avete illustrato e che oggi state presentando prevede, quindi un supporto legale, un piano formativo e di avviamento al lavoro credibile, ma voglio ricordare che in quel piano formativo la conoscenza della lingua, per esempio, è un elemento essenziale. È evidente che una persona che non è in grado di interfacciarsi in alcun modo con ciò che lo circonda, perché non è in grado di comprendere la lingua del paese in cui è arrivato o di esprimersi, si mette enormemente fuori dalla società e quindi l'isolamento non può che aggravare le sue condizioni di salute mentale. Occorre anche, appunto, dicevo, però, la possibilità di essere guidati, quindi di guidarli anche, soprattutto quando parliamo di persone di minore età, guidandole ad avere la pazienza persino di accettare che occorre formazione per arrivare a un lavoro, quindi a un progetto di lavoro credibile. Molti di questi ragazzi che avete evocato, i minori stranieri, arrivano con l'impegno e addirittura con il peso di debiti enormi fatti a casa loro o di debiti rispetto a cui loro devono rispondere alle famiglie che li hanno spediti, cioè che gli hanno pagato il viaggio, oppure con l'impegno di mantenere a casa le loro famiglie. Quindi arrivano con la necessità urgentissima, l'estremo bisogno di cominciare a guadagnare e occorre accompagnarli invece in un percorso che faccia capire loro che c'è un lavoro, c'è una possibilità di lavoro, ma che questo richiede anche la pazienza di una formazione per arrivarci. E occorre anche essere accompagnati in un inserimento che ti porti nella davvero a comprendere qual è, diciamo, come funziona il paese nel quale tu sei arrivato e a muoverti dentro a quel contesto, essendo in grado, essendo consapevole, diciamo, almeno delle cose fondamentali di quel paese che ti ospita. Un altro aspetto che va sicuramente tenuto in considerazione è quello che i centri di accoglienza nei quali queste persone si trovano, a parte che io avendone visitate in passato da parlamentare diversi, devo dirvi che penso che in alcuni casi l'inferno sia qualcosa di abbastanza simile a quello che hanno vissuto o vivono loro, nel quale si ritrovano. E ogni tanto mi interrogo sul fatto se noi abbiamo mai pensato cosa succederebbe a noi se partendo da casa nostra ci trovassimo a vivere per periodi più o meno lunghi reclusi in luoghi come quelli dove noi chiudiamo loro, giusto per diciamo capirsi, perché non so se è chiaro a tutti che dormire su un gradone di cemento, come ho visto io, è cosa che viene ancora oggi sostenuta come necessaria, magari in un paese dove è freddo e ti danno una coperta e dormi appunto, non che loro a casa loro, perché poi, scusate, precedo diciamo le obiezioni che certamente non mi arriveranno da voi, ma che ho tante volte dovuto ascoltare, come dire che tanto a casa loro dormono sulla terra, ecco. Dormire su un gradone di cemento armato con una coperta nelle notti invernali nel nord Italia, ecco, immaginiamo chiusi dietro delle sbarre con anche l'uso, come è stato fatto in passato, di psicofarmaci per tenerti addormentato o semi-addormentato tutto il giorno così non disturbi, difficilmente credo possa rappresentare una prova dalla quale non si esce molto, molto traumatizzati. Dicevo, tra l'altro, c'è il problema dell'isolamento di questi centri di accoglienza, che di fatto finiscono con il produrre un confinamento fisico, cosa che ovviamente acuisce, non può che acuire quel senso di lontananza, di estraneità totale, di sradicamento e anche quel senso di sentirsi nel nulla, non dentro a un progetto di vita che probabilmente è quello che invece ti ha guidato ad andartene dal tuo paese, ad allontanarti. Questo richiede che dentro quei centri operino anche esperti, persone che sono in grado di intercettare in maniera precoce disturbi mentali, che siano in grado di fare diagnosi precoci e così che si possa non pregiudicare un potenziale possibile processo di integrazione. Vi ho già detto che dal punto di vista sanitario la strutturazione dei servizi di salute mentale aperti alla relazione transculturale, competenti per l'individuazione e la cura delle vittime di violenza intenzionale e di tortura, così come buone prassi che Psycare ha il merito di, diciamo, presentare, è un punto su cui ancora noi dobbiamo interrogarci riguardo alla possibilità d'accesso davvero di chi ne ha bisogno. Quindi certamente esistono, mi domando a quanti siano però, quante persone possono davvero accedere e quante restano escluse. So che sono state richiamate poco fa in un intervento che mi ha preceduto le linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato. Si tratta, come è stato giustamente ricordato, di linee guida del 2017. Io credo che forse oggi potrebbe venire il tempo di provare a rivedere insieme queste linee guida e provare a valutare se queste linee guida, alla luce, diciamo, anche delle esperienze che molte persone hanno fatto, delle conoscenze, anche dell'impatto che le nuove norme, io faccio riferimento alle norme approvate dal passato governo, pensate quale tipo di impatto anche sulla salute mentale abbiano avuto e possono aver avuto le norme, il decreto Salvini, che precarizza in maniera assoluta le vite e rende praticamente tutti di fatto. Mette quasi tutti o un'enorme platea in uno stato di sostanziale illegalità, tema che difficilmente credo si possa conciliare con una saldezza anche, no? Con un senso di accoglienza che deve accompagnare eventualmente queste persone. Il Servizio Sanitario Nazionale, come pensato oggi, da questo punto di vista è spesso inadeguato a rispondere ai bisogni di salute dei migranti forzati e anche, vorrei aggiungere insieme a loro, a chi è in condizioni di estrema marginalità. In questi giorni mi sto interrogando e lavorerò su questo, con l'Istituto Nazionale delle Migrazioni e della Povertà, che ringrazio molto per il lavoro che ha fatto insieme a me in questi mesi. Anche su questo punto delle povertà, perché io credo che noi dobbiamo interrogarci sulla possibilità di rendere più accessibile davvero il servizio sanitario a chi è in condizioni di marginalità estrema e naturalmente anche alle persone che si trovano presenti sul territorio italiano e magari non sono ancora in condizioni di regolarità di soggiorno. Vi faccio soltanto un esempio in cui mi sono purtroppo imbattuta in questi giorni, oltretutto in una città come Bologna, dove non ti aspetteresti che possa accadere, ma una persona di un gruppo, di una famiglia che conosco da tanto, si è rivolta a me nella disperazione di un familiare colpito da una forma molto grave di Covid. Lui con permesso di soggiorno si trova ancora in terapia intensiva. Una figlia, una compagna, alla compagna a cui è scaduto il permesso di soggiorno, è stato dal medico di base della famiglia rifiutato o comunque è stato annunciato che sarebbe stato negata la richiesta di un tampone perché non aveva il permesso di soggiorno. Quindi, questo vi dice, diciamo, il livello a cui anche la nostra formazione su cui anche la formazione dei medici e della medicina di base deve tornare a fare davvero un importante investimento, perché se un medico di base non sa o ignora che l'accesso alle cure, per fortuna in Italia, è garantito a tutti, e tanto più ribadisco in caso di un'epidemia in cui lo stato della tua salute mette eventualmente a rischio lo stato di salute di tutti quelli che hai intorno, appunto io mi domando come possiamo immaginare di non mettere mano al più presto. In questo momento al Ministero della Salute c'è anche in corso una riflessione abbastanza importante, credo, spero, ecco, sul tema della salute mentale, che vede tra l'altro declinare la salute mentale in termini soprattutto di rispetto dei diritti umani, e quindi mette al centro dell'approccio ai disturbi mentali o dei comportamenti, innanzitutto il rispetto dei diritti umani e della dignità delle persone. Quindi ovviamente anche una forte azione di contrasto al cosiddetto stigma che accompagna le persone affette da disturbi mentali. Tra l'altro, in questo momento anche questo disagio, il disagio di molte persone è cresciuto enormemente con l'epidemia. Questo vale per tutti, migranti e non migranti. I dati ci dicono che c'è un enorme aumento di forme di depressione, di ansia, di ossessione e probabilmente di una grande paura. Guardate, un elemento persino che sembrerebbe non entrarci niente, ma difficilmente si può sostenere che non c'entra niente, è il fatto che le persone non investono assolutamente più e non spendono più perché hanno paura del futuro. E quando si ha paura del futuro è difficile sostenere che la salute mentale di queste persone sia proprio, diciamo, nella migliore delle condizioni possibili. Per dirvi che credo che sia molto più diffuso di quanto non immaginiamo, e io credo che dopo le crisi e l'emergenza del Covid ci renderemo conto anche dei gravi traumi che questa vicenda ha lasciato. Io immagino che abbia fortemente colpito anche la salute dei migranti, che tra l'altro vedono messe in discussione anche quelle poche certezze. Pensate a tutti i migranti non appunto regolarmente soggiornanti, che non hanno visto e non vedono rispettato minimamente neanche la loro capacità di sopravvivenza. Perché sono stati anche privati del lavoro, delle uniche possibilità di lavoro che erano in campo, spesso in nero, quindi anche privati di sostegno economico, e certamente il sostegno economico a loro non arriverà da nessun provvedimento, perché magari in condizioni di regolarità assoluta. Credo che questo anche sarebbe un aspetto da indagare, cioè provare a comprendere come l'emergenza Covid, quali condizioni e quali conseguenze abbia avuto su questa fascia della popolazione, che è la popolazione dei migranti. Anche non messi sempre perfettamente in grado di comprendere che cosa sta succedendo. Mi riferiscono infatti molte associazioni di tutela della salute dei minori, soprattutto, o che lavorano con i minori migranti, che per molti di loro è stato difficile comprendere la necessità della distanziamento fisico, l'obbligo della mascherina, l'idea della malattia come una cosa, o dell'epidemia come una cosa che non conoscono, di cui forse non si sentono neanche possibili potenziali vittime, insomma, no? E quindi sarebbe interessante anche indagare e conoscere che cosa ci sarà, che cosa ci aspetta quando l'epidemia sarà alle nostre spalle. In sostanza, quindi, quello che voglio dirvi è che certamente questo che il Ministero ha orecchie molto attente e anche molto siamo anche molto interessati a un lavoro comune che porti a migliorare e a rafforzare quanto si può mettere in campo per tutelare la salute di tutti. Ricordandoci davvero, al di là della retorica, che come l'OMS ci ha ricordato in occasione della recente giornata della salute mentale, non esiste salute se non c'è la salute mentale, e che la tutela della salute di ognuno in questo momento è davvero, corrisponde davvero alla tutela della salute dell'intera comunità. Perciò grazie di quanto state facendo, grazie anche della possibilità di fare una riflessione insieme, e vi auguro buon lavoro e buon proseguimento del lavoro della giornata. Grazie onorevole, grazie per queste considerazioni, devo dire che noi abbiamo in essere un progetto appunto proprio sul progetto FAMI con l'area della fragilità dell'ASL di Salerno e con anche Dipartimento di Psichiatria, e sta in questo momento monitorando il livello di sofferenza che si sperimenta nei centri proprio a ragione della pandemia e dell'isolamento, della condizione talvolta di dover interrotto sovente attività formative, attività lavorative, è indubbio che è una fase molto difficile per coloro che sono nei centri di accoglienza, almeno dal nostro osservatorio, e questo rende ancora più evidente quello che è stata la nostra percezione fin dall'inizio. Lei diceva prima per i minori, ma non solo, un chiaro progetto anche di formazione, di lavoro e un sostegno psicologico. Ecco, nella nostra esperienza è più facile un percorso di formazione, è più facile ottenere magari un inserimento lavorativo, molto più difficile avere disponibilità dei servizi territoriali per un adeguato sostegno psicologico. E questo è un problema poi per la tenuta anche delle attività di formazione o di inserimento lavorativo. E sappiamo che questo dipende anche, l'abbiamo certamente scritto, da una condizione, diciamo, di impoverimento dei servizi in termini di risorse, in termini di personale, eccetera. E questo certamente rappresenta uno, diciamo, dei gridi di dolore, insieme all'altro che lei ha citato, che è il tema ovviamente di una formazione adeguata, e anche questo è una preoccupazione che percorre un po' tutto il lavoro fatto sulle linee guida e di cui ci pare molto importante richiamare l'attenzione. Grazie ancora, onorevole, grazie per l'attenzione che ha mostrato a questa iniziativa e per la disponibilità, come diceva, a proseguire magari una riflessione comune a partire dalle nostre linee guida.